Questo è un podcast di Rivista Militare. 80 anni da El Alamein, di Carlo De Risio. Capitolo 2. Il miraggio delle piramidi. Sempre in base ai dispacci di Fellers, si era potuto apprendere, particolare importantissimo, che su 1142 carri armati britannici, 1009 erano stati distrutti. Nei depositi del Medio Oriente rimanevano appena 133 carri. Quella che Rommel, nelle sue annotazioni sulla guerra d'Africa, chiama l'occasione unica, trovava la sua giustificazione dalla somma di tutti questi fattori. L'ottava armata aveva subito un tracollo senza precedenti e Tobruk era caduta. Bisognava cogliere quel momento irripetibile per tentare la conquista di Alessandria, del Cairo, della zona del canale. Per la verità, né Bastico, né Kesselring e nemmeno Cavaliere condividevano la predisposizione di Rommel a giocare d'azzardo. A Derna, il 25 giugno, i tre alti ufficiali fecero il punto della situazione e proprio Kesselring, il sorridente Albert, come lo chiamavano i tedeschi, fece un apprezzamento della situazione ispirato all'estrema razionalità. «Il nemico», disse Kesselring, «può formare una massa decisiva contro di noi. Io lo aspetto e lo temo. Anche ammettendo che non giungano rinforzi, dobbiamo contare di avere di fronte circa 600 apparecchi, a cui apponiamo 60 o 70 caccia tedeschi ed altrettanti italiani, che diminuiranno del 50%, perché dati i mezzi di trasporto, solo la metà di essi possono seguire l'avanzata. Lo dissi già al Führer che le forze qui erano sufficienti per l'obiettivo previsto. A raggiungere altri obiettivi non è soltanto questione di benzina e di bombe, ma anche di apparecchi. Ritengo di aver rappresentato la situazione in modo del tutto obiettivo e non penso che Rommel possa andare oltre El Alamein. Di tale giudizio mi sento responsabile di fronte alla storia. Corsivo dell'autore. Il 26 giugno, Cavallero, Bastico, Rommel e Kesselring si ritrovarono a Sidi El Barrani per un incontro conclusivo, mentre le punte avanzate dell'armata si avvicinavano al campo trincerato inglese di Marsa Matruh. Rommel fu perfino gelido con Kesselring. Bastico era sempre riluttante a quell'affondo. Cavallero era un po' sulle sue e un po' guadagnato alle tesi della volpe del deserto. Tanto è vero che subito dopo, Cavallero comunicò a Roma la parola convenzionale Tevere, in seguito alla quale Mussolini giunse in Libia sicuro di entrare trionfalmente ad Alessandria e fu poi tragica e amara la sua inutile attesa fino al 20 luglio quando rientrò in Italia. Quello che si dissero i quattro marescialli si ricava ancora dai ricordi di Bastico. Rommel si dimostrò nuovamente fiducioso, ma dovette prendere atto che nessun serio rinforzo gli sarebbe stato concesso. «Ho bisogno di un intervento presso il Führer perché mi vengano inviate con urgenza truppe fresche e unità corazzate», Kesselring rispose asciuttamente. «Credo che per adesso sarà difficile, c'è troppa carne al fuoco dappertutto. Al momento ho soltanto avuto alcuni nuovi Stuka». La conclusione di Rommel fu a dir poco altezzosa. «Se l'armata riuscirà a superare la stretta di Alamein, cosa che credo, il 30 giugno sarò al Cairo, vi aspetto là, potremo parlare con più comodo». Proprio il 26 giugno si era intanto prodotta una grave crisi di comando nel 20° Corpo d'Armata. In seguito a un bombardamento aereo, persero la vita il comandante del 20° Corpo, generale Baldassarre, il comandante dell'artiglieria, generale Piacenza, e il comandante del genio, colonnello Raffaelli. Un triste presagio. Conseguentemente, il generale De Stefanis, dell'Ariete, assunse il comando del Corpo d'Armata, mentre il generale Arena diventò comandante della divisione corazzata. La Desert Air Force, rinunciando a battere i lontani obiettivi strategici in Cirenaica, stava sottoponendo le colonne avanzanti italiane e tedesche a una serie di duri attacchi, con i 200 aerei plurimotori e i 160 caccia monomotori disponibili nel deserto occidentale. ma con che cosa stava avanzando l'armata corazzata in direzione dell'Egitto? Corpi d'armata, divisioni, reggimenti, battaglioni erano tali soltanto di nome. Il 20° corpo d'armata comprendeva l'Ariete, ridotta a 10 carri armati, 15 pezzi di artiglieria e 600 bersaglieri dell'8° reggimento, mentre la divisione motorizzata Trieste disponeva di 4 carri armati, 24 pezzi di artiglieria e 1500 fanti. Ed eccoci alla divisione corazzata Littorio, assegnata al 20° corpo durante le precedenti operazioni. Letteralmente smembrata dopo il suo trasporto in Libia, avendo ceduto carri, cannoni e materiali all'Ariete e alla Trieste, la nuova divisione disponeva in tutto di 30 carri, 11 pezzi di artiglieria e 1000 bersaglieri del 12° reggimento. Il 10° corpo d'armata, divisioni di fanteria Brescia e Pavia, aveva una consistenza complessiva di 2000 fanti e bersaglieri e 90 pezzi di artiglieria. Nell'ordine di battaglia figurava anche un gruppo di inseguimento, tratto dal 21° corpo d'armata, formato da un battaglione granatieri controcarro, 2 battaglioni di bersaglieri del 7° reggimento, 4 battaglioni della divisione di fanteria Trento e 8 gruppi di artiglieria, in tutto 3000 uomini e 100 pezzi di artiglieria. Quanto alle divisioni corazzate del DAC, Deutsches Afrika Korps, la 15° e la 21° Panzer erano ormai ridotte a esigui gruppi di combattimento. I carri cominciavano ad arrancare, col fiato grosso, per via dei motori logorati dalla sabbia e da ore e ore di moto in combattimento. La 90° divisione leggera tedesca era ridotta a meno di un sesto degli effettivi e in condizioni non migliori si trovavano i gruppi esploranti 3° 33° e 580°. In queste condizioni, l'armata era il fantasma della grande unità che, rombando e sferragliando, aveva iniziato l'offensiva il 26 maggio. Quando Kesselring asseriva che le forze assegnate erano a malapena sufficienti per raggiungere l'obiettivo assegnato, cioè la linea Sollum-Alfaia, non faceva che rispecchiare la realtà nuda e cruda. Dalla frontiera libico-egiziana al delta correvano più di 500 chilometri, battuti dalla RAF. Inoltre l'ottava armata, pur duramente provata, stava avvicinandosi alle basi di alimentazione, mentre l'armata italo-tedesca si allontanava pericolosamente dalle proprie, finendo nella classica area di sfinimento strategico. Rifatti i conti, l'armata poteva contare esclusivamente sulle proprie forze e, in considerazione delle scadenti caratteristiche dei carri italiani, la punta di diamante era formata dai carri tedeschi, che tuttavia erano poche decine. Come ricorda il generale Giuseppe Mancinelli, capo di Stato Maggiore della Difesa nel 1954-1959, all'epoca capo di Stato Maggiore di collegamento presso l'armata corazzata italo-tedesca, il corpo tedesco poteva contare su 54 carri efficienti, mentre 150 si trovavano in riparazione nelle officine campali e sarebbero stati restituiti ai reparti, prevedibilmente, nel giro di 5-10 giorni. La Wehrmacht, in quel momento, non ritenne di potersi privare di una sola delle divisioni corazzate destinate al fronte russo. Si parlò in seguito, ma se ne parlò soltanto, di inviare in Africa la 7ª e la 10ª Panzer. Ma poi non se ne fece nulla. Anche nell'estate del 1941, la 6ª Panzer, inizialmente destinata all'Afrika Korps, era finita in Russia. I carri, già con la colorazione mimetica del deserto, partirono alla volta dell'Ucraina. Addirittura inesplicabile la dispersione di forze da parte dell'Italia. Proprio nel giugno 1942 stavano partendo per la Russia le divisioni dell'Armata Italiana in Russia, 8ª Armata, con più di 16.000 automezzi, disperatamente richiesti in Africa, che si aggiungevano agli oltre 5.000 assegnati in precedenza al Corpo di Spedizione Italiano in Russia e la quasi totalità dell'artiglieria moderna d'armata, di corpo d'armata e divisionale, gruppi da 210 su 22, da 149 su 40, e soprattutto gruppi controcarri da 75 su 32 e obici da 75 su 18. A parte i gruppi contraerei da 75 su 46, le mitragliere da 20 e le armi da accompagnamento. In tutto più di 800 pezzi. È vero che un raddoppio delle unità corazzate e motorizzate in Nord Africa avrebbe ulteriormente complicato il problema del rifornimento necessariamente via mare, ma nell'estate del 1942 mancò la volontà di giocare il tutto per tutto, dal momento che si era deciso di penetrare in profondità nel territorio egiziano. Inoltre, venne a mancare la creazione di un adeguato centro di gravità aereo, anche da parte tedesca, sottraendo reparti della Luftwaffe a settori minori come Francia, Danimarca e Norvegia. Nel deserto occidentale, tra il 28 e il 30 giugno 1942, la guerra in Nord Africa giunse ad una svolta. Dal Cairo, il comandante del Medio Oriente, generale Claude Auchinleck, aveva assunto il comando sul campo dell'ottava armata, rimuovendo il generale Ricci. Era la seconda volta in meno di un anno che Auchinleck si vedeva costretto a una decisione del genere. Nel novembre 1941, infatti, aveva rimosso il generale Cunningham, fratello del più famoso ammiraglio, in seguito sempre ai brucianti insuccessi dell'Armata del Deserto. Auchinleck fu il vero protagonista di quei giorni carichi di destino, ma prima di vivere la sua ora più bella, il generale dovette trangugiare un altro amaro boccone. Marsa Matruh, investita dalle divisioni fantasma italo-tedesche, capitolò il 29 giugno. Vennero catturati 6.000 prigionieri e il solito bottino di rifornimento. Furono i bersaglieri del 7° reggimento a entrare per primi nella piazza forte, l'ultima posizione importante prima del Delta. Tuttavia, a causa delle esiguità delle divisioni dell'asse, l'accerchiamento di Marsa Matruh non poté essere ermetico e i britannici riuscirono a sganciare il grosso della fanteria. Fin dall'inizio della guerra in Africa settentrionale, i piani britannici prevedevano che qualora il nemico avesse raggiunto Marsa Matruh, la flotta di Alessandria, Mediterranean Fleet, avrebbe lasciato la grande base egiziana, ormai entro il raggio d'azione dell'aviazione italo-tedesca. Fu ciò che avvenne, e fin dal 21 giugno l'ammiraglio Harwood aveva predisposto i piani per il decentramento della flotta ad Haifa e a Suez. Auchinleck, a sua volta, pur predisponendo i piani per la difesa del Delta, la stessa perdita dell'Egitto non era importante quanto la difesa a oltranza delle posizioni a est di Suez, soprattutto l'Iraq e l'Iran, indirizzò ai suoi uomini un ordine del giorno del seguente tenore. Il nemico si è spinto al massimo limite consentitogli e pensa che siamo un esercito ormai disperso. Spera di occupare l'Egitto con un bluff. Fategli vedere che sbaglia. In una serie di scatole da El Alamein ai margini della depressione di El Kattara erano attestate le unità britanniche scampate al disastro delle settimane precedenti, ma erano tempestivamente affluite anche unità fresche, perfino dall'Iraq, come la 18ª Brigata Indiana. Il podcast di Rivista Militare, 80 anni da El Alamein, vi dà appuntamento al prossimo episodio.